Sì, Ami, stamattina è salito a Sorso e gli ho dato la radio, il presidente, e l'altro microfono uguale a questo, che ha detto che me lo sistemava. Poi stavamo parlando con la radiolina, quella tipo Baufen, e mi ha detto che quella radio che mi stava sistemando, cioè che l'ha controllata il presidente, che già funzionava, voleva allineato e mi ha detto che c'aveva la scheda da 45 metri dentro. È per quello che era un po' mezzo incasinato. Diceva sì, via via, cacca e fura di gabbo, l'avevamo comprata in Sicilia quella radio. Capo, vabbè, vuol dire che qualcuno ha fatto qualche modifica, ha fatto, era un po' più incasinata. Il 45 metri, aspetta. Vabbè, quelli li usano i camionisti, mi sembra. Boh, non lo so, la gente l'ho presa in Sicilia, deve seguire la di Cosa Nostra, a cucare alcuno, la grattavano. E mi ha detto no, perché la radio l'ha provata in trasmissione in AM, in FM, già funzionava, però era un bel bassa strana, poi dietro c'era un tastino, cioè, che deve essere che per aumentare la potenza. E niente, ha detto che me la sbirciava e guardava lo schemino, mi toglieva quella scheda e la metteva tipo in originale, dai. Perché tanto non me ne faccio niente di quella scheda a 45 metri, tanto non si buffa vita, ma ha detto perché in VHF mi pare su 45 metri, così è. No, 45 poi non so metri, non 45 metri. Sì, la scheda delle 45, di andare a fa casino con la radio, quindi sono i camionisti. Oh, non lo so, non lo so, fra, gli ho detto va bene, il sistema quando vai in depo già non ce n'era, giù di tu, presa, né nuda. Niente, perché è salito a Sorsa a fare una commissione, poi gli dovevo dare un'altra commissione io, e niente, ed era contento. Gli ho recuperato una bottiglia di Piru Firru, fatto a Sorsa, da Ruba Ronzini. Capo, sì. Vabbè, questa scheda, però quello lì dovrebbe avere già il 45, dovrebbe averle già di serie. Vuol dire che quello lì entrava a fare altre cose, entrava a fare. O era qualche radioamatore, o per forza a chi? Il sovracchino va alle bande laterali e lo 45 per la via di Alisirio. E infatti mi ha detto che allora dice che su quella scheda praticamente quando la mettevi in moto non potevi tipo modulare a chi, ha detto che passavi i gasini si fa guidare con chissà che era compreso, però deve essere che la usavano ad ascoltare, capito? E infatti gli ho detto non lo so, mi ha detto grazie, la radio mirata vai tu, chissà la radio, chissà che era andata, ci te ne presso gavi, la giubbotti su l'adesivi presidente Jackson Velli, che me li ha fatti un amico, e niente, poi l'ho aperta, l'ho controllata, ma la verità no, io da che non ne so, non ne sapevo né se c'era scheda in più, se c'era scheda in meno. Mi ha detto non ti preoccupare, a te la sabotteggio io, la portiamo in origine, facciamo funzionare bene. Mi ha detto che almeno quella, posso usare quella e posso magari entrare nelle altre bande e ascoltare e parlare, dai, più o meno. Capo, chi è che vuole entrare? Beh, fra, e allora? Ehi, buongiorno, Calvino. Non è la scheda per il canale 45, è la scheda pari 45 metri. Per banda aveva la scheda della banda dei 40, invece dei 40, 45 metri. Onde si fabbricava prima banda birata, e già la sto togliendo. Ah, quella banda che prima si parlava, sì, adesso mi ricordo. Esatto, quella lì, ma tutto quanto già frusagliato, tutto quanto già frusagliato, me la sto adesso, sto facendo un paio temperatura e vediamo un pochino. Vai, riprendete, sono qua all'ascolto. Ehi, sì. E molta gente si comprava il coso, adesso non mi ricordo, non mi viene il nome, non mi viene, il trasverter, si comprava per quello lì. E deve essere, comunque, capito, fra, è possibile via che pure il Gabu Sarrari. E noi lavoriamo il Gabu, era uno che prima ci usava nei figossi, ci usava andare nelle bande pirate, ci faceva il pirata. Ma in che senso fra il pirata? Nel senso che cioè, ti mettevi a ascoltare come fossi tipo carabinieri, figosi così? No. Ascoltavi e favidavi il burro, ti favidavano il burro sopra i canali. E i GB, noi, da, vi favidavano, anche se non si poteva parlare. Capito, quindi tipo una banda a parte era che magari non ce l'avevano in tanti e usavano quella lì per parlare di nascosto. Bene, ma oggi non sta piovendo, avevo messo acqua ma non è affatto. Sì, che ha piovuto stamattina alle 8, 7 e mezzo 8, ha fatto una mobina, una storia strana. Ah vero, vabbè, ero dormito ancora. Eia, perché Davide è sceso in campagna che stavano raccogliendo le olive e mi ha detto, grazie, ma mi pare che inviemmo. Da lui ha detto, no, fu a cutti solo un quel parito, perché stavano finendo di fare la raccolta da ieri, da, nell'olivetto mio. E non lo so, adesso raccoglievano l'altra metà stamattina. E domani lo portano all'olificio a Sino. Ma il socio non viene più? No, io mi sono sempre servito a Sino e poi quello che è venuto, la squadra che è venuta per raccogliere le mie olive, lo portano da Sicchi a Sino, vicino al campo sportivo vecchio, perché da Paschino c'era un casino di gente. Un anno l'ho portata da Sicchi, da mio compare, a Sassari e mi ha pure buttito. E quindi siccome questo ragazzo che è venuto con la squadra c'hanno la scottitrice, i cassoni, le tende, sono 5 ragazzi e niente, li ha aiutati anche Davide. E quindi ieri hanno raccolto 20 quintali di olive. Oggi ne avranno accogliti altri che tanto. Perché nell'olivetto mio ci sono 200 alberi di olivo e mi ha detto che come olivetto il mio era quello che aveva visto più pieno di olive di tutti. Da, tu guarda, io quando ho ruddato Reggio e gli fa tipo l'Italia all'erba con il trincia, io non gli ho mai dato né medicine né niente. Anche una buccia di ridravaglio lo darreno, che ripira, raiburi. Funzionano i vedi, gli alberi si nutrono bene e niente, poi quando c'era quel caldo torrido in estate babbo gli ha dato una bava visto che rimaneva nei più auccia solidi, perché rimane in pianura il mio olivetto, però rimane tipo, come ti posso dire, in pianura ma in discesa verso destra, però verso destra la terra rimane più marrone, invece su verso sinistra in alto rimane più mischiata sabbia di mare, capito? Ed è lì dove c'aveva la campagna povero Garbuni, Nino Gaiboni, Rubassoni, e di fronte ci abita Pina, chissà che veniva nella frutta con Lucio Franca. Sì. In Pedugnano praticamente ce l'ho io a campagna. Aspetta Gianni, aspetta un attimino che mi stai schiacciando a Gavino. Dimmi Gavino, uscendo bene sto uscendo bene, solo che bassa, un bel basso. Sì. E poi piano piano fagli l'aumento del microfono. Se plafondo scala. Gavi, ti ho attenuato a 20, a 9,20 e sei andato a 9,50. Aspetta, Sicuramente, ma quel tasto che tu dici che c'è dietro sarà per 45 metri? Ah, capita. No, aumenta un bene, aumenta. Ma io ti ho... Quando tu hai detto che hai agganciato, che sta dicendo 25, prima eri a 9,20, poi sei andato a 9,50 quando hai aumentato. Ecco, va bene, va bene, va bene. Gianni, l'hai sentito? Sì che lo sento, però io lo sento basso. Sì, sì, lo senti basso perché sto uscendo col microfono originale. Sto uscendo, però è chiara la modulazione. Io l'ascolto bene, l'ascolto. Capo, sì, sì, sì, sì. No, io ti ascolto bene comunque, anche se sei basso, però ti ascolto benissimo. Capo, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Una bella radio allora deve essere. C'è una bella radio. Ehi, agappa, agappa, no, non ti preoccupare. Anda bene, anda bene. Capita, una scheggia, sì, anche sul microfono. Se me l'ha sistemato un professionista, non esorgo io. Quando ti buonio rimani io, minimo era ducato un bigliallo e ho di tiro 30 gas, metto miera, è rotto battaglio. No, me l'ha sistemato bene, mi ha cambiato anche il filo di connessione alla radio, perché non era buono, dai. Capo, sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, va bene, va bene. Adesso, in confronto a prima, è più forte la radio, ed va benissimo. Sì, infatti parlo, vedo adesso, a 30-40 centimetri, dipende, da. Ho regolato come mi ha detto di regolarlo e va abbastanza bene. Siamo in una divisione buca, va. E la ritengo io, la ritengo, sì. E i canarini. Canarini e due pappagallini, cioè due coccolite mi hanno regalato. E sottoviso. E tazzini. Dai, ti vado in compagnia. Capo. E l'ha visto che entrato in un negozio. E ne vendono le cose, pari pappagalli e tutto quanto. E veniva uno maduro, bello, gà. Orca miseria, c'è la gamba. Un coso, Baria, un'aquila, Baria. Chicco, questo si chiama Chicco. Si lo fa vedi, ti dici, ciao, cosa cazzo vuoi? Andate fuori, gà, vuoi un giallo, verde, blu, mi pare che. Ehi, ma questo che vedi al portatore si dicendo? Che prima era nella strada per Alghero quel negozio lì. Sì. Dai lì, io sono andato lì, sono andato. Capita, micidiale, che. Bello veramente, bello veramente. No, anche io vado in quel negozio per prendere il mangime ai canarini e il mangime ai coccolini. È la prima volta che l'ho visto, allora camminavo un po' garito con i campelli e cosa. Cavolo, ma era troppo pure di gabbo, un pazzo quell'uccello, perché sono passato davanti, però da dietro. E mi ha detto, nel pappagallo mi ha detto, che c'è? Ma che cazzo vuoi andare tu fai dentro? In giro quella sta gabbia ronga, e dentro Baria, una statua è di Baria. E invece era tutto canto flippato, la magnetta di nozzi era, non si imbucciate la magnetta. L'hai già visto, sono andato con mio fratello, sono andato. Mio fratello si può comprare, perché lui c'ha i pappagallini lo stesso, no? E è andato a comprare da mangiare. Passo in vicino questa gabbia, hai detto, questo non è maduro. Però non lo fa vedato. Ma se non parlavi già ti parlava. Allora tu immaginati quando aveva il negozio giù nella strada per Alghero, a volte rilasciava lo sportello aperto e sentiva Murendi entrare un negozio perché il capannone era alto, no? E le porte erano tutte chiuse. Ma era micidiale, bellissimo, bellissimo. Una cosa del genere dentro un casa te ne mangia tutti i mobili. Cappa. Sì, ma nella strada di Alghero sto dicendo io, di fronte quasi alla Peugeot. Sì, ma prima era quello lì, dopo dopo la Fiat. Invece adesso è dove c'era una volta, e forse era Bijou, è un negozio di moto, quindi mi salvò. No, è di fronte alla Bijou, dall'altra parte della strada. E ci sono andato da poco, mi sono andato, ma era bello da chi tu muore. Chissà che autobus è una cosa del genere. Quelli sono cari, perché allora ce n'è uno di modello pappagallo, si chiama Cenerino, che ha la coda rossa, che molte volte metto, me lo guardo su Facebook, io che parla, un po' intelligenti so che si pappagalli. E invece quello lì è un pappagallo ara, mi pare che si chiama, che rimane un po' più grande, molto grande, rimane tipo un metro, rimane. Ed è fuori di gabbia, bello è, se uno ha una cosa del genere in casa le va bene una gabbia manna, le va bene, a che fare una criatura pare. Capo, sì, ma non bene, ma ha detto, capita, ha detto, che si mi piacciono a me, ma non che si minoride, fatene casino, ma c'è chi è silenzioso e tranquillo. Sì, quello sì, però lo sai cosa hanno quei pappagalli? Che tipo di si posa una taraiana di casa, tiene rustigheggia la iana, tiene rustigheggia i mobili. Ce l'aveva così una volta, cosa, visto Max Atturi nei bari, visto questa, il B&B Villa del Labio. E poi non lo so, mi sembra che se l'aveva venduto o l'aveva regalato, perché ha detto che ne stava mangiando tutti quanti i mobili a casa sua. Ma faccio lo picco, compri. E bastava fare la gabbia e rimaneva dentro la gabbia. Infatti, mi ha detto che era un po' impegnativo, perché quando c'hai quei pappagalli così, dice ci devi stare un po' su, parlare con loro, anche se no dici che praticamente si musigheggiano e si mutileggiano da rasura, e quindi vogliono la compagnia di un umano. Oh, che è questo? Arrisentini la rasura, quando le lasse giuri. Eia. Però è tu, anche per esempio se ce l'hai addomesticato, che è proprio per la minore, che ho visto un video di uno in bicicletta, passeggendo e via via, è nata la iPad, ogni tanto burava, durava nel rubadrono, ridazia di pura grocchettina, rugoso, è sottoviso. E poi c'hanno tipo l'anello con un patentino, mi quei pappagallini lì. Praticamente sono come i cristiani, vanno una carta di identità, vanno. Non è che per esempio se tu ne trovi uno, vabbè se lo dai dentro casa e no succede nulla, però se uno sta cercando che ha fatto la denuncia è un casino, e a chi sono tipo come quando il cane c'ha il pedigree, una cosa del genere, capito? Capo, sì, avanti capito, che era andà bene. Va bene. Già. Capita. Ma a me mi piace non bene. Se minori, fate il dopo casino. Quando Simone mi dico a Ciarrani, fate nome di casino. Però anche quelli mi, se tipo per esempio fanno la cova e nascono i pulcini piccoli. Anche quelli se li addomestichi parlano, perché ho visto dei video fuori di testa che ce l'aveva nella spalla il pappagallino e poi dava di zia, siamo rovinati, porca puttana, baciami le mani. Ci si è visto il pappagallino del tuo coppiato. Ed era di una signora di Catania. Troppo pure di gabbuera. Vuol dire che se la dovessi riuscire a pigliare i comandi, compreso, e riuscire a fare da bene. Ma ci devi stare sempre sopra, mia, che alla fine sì, sono belli, ma sono anche impegnativi quando sono di così. Lo so che sono impegnativi. Va bene, io l'abbiamo fatto. Mezz'ora un quarto. Se no, fra... Fatta giorno di buchi due cartellini e sei a furco. Lo manzano come salvigia si muove in a cantare. Sto carino so. Oh, ciao Vannino, buongiorno. E allora? No, ma sono meglio due guai, quando ti stracca il guzzi. A me è un po' credo, va. E via. E cosa fai a chiamare? Non lo puoi intendere male. Cosa fai? Io niente, ciao. Cosa muro, ma mi succede la roba. Capito, niente, fra, tutto a posto. Capo, no, perché ti sento la modulazione un po' rauca. Gianni, avanti Gianni. Cappa, buongiorno Vanino, qua Gianni San Pida Sosso. Sono più contento, sì. Sì, è così. Quindi ora fate come manda. Niente, sì, sembra yoga, prende quattro ghiacciali. E lì. Bella. Ma non già, ti sento bene, ma sei un bel strano, fa vedendo. La radio o il microfono. Ti sento un bel rauco in blu. Così meglio fa. Non lo so. Fra così e tu come lo senti? Se ne pisene l'obiettino se ne è, le paghizzo. No, vai, ha migliorato, dai. Avanti va. Già aveva detto, vediamo un po', il diavolo è avvato, non è che sia, ma così, boh, ma tanti anni fa, sì, adesso abbiamo messo il microfono, c'è il compressore inserito anche. Capo, adesso va bene, dai, va benissimo, non lo senti bene adesso già? Sì, adesso ha migliorato, adesso lo sento un po' meglio, è più comprensibile, dai. Magari si vedi appena di più ferro e vedi che funziona tutta la grande. Vabbè, dopo ci penso comunque, dai, sono mettato anche un po' ma è fredda la radio, capito? Vabbè, abbassiamo, intanto non serve a niente. Ok, mettiamola così. Così è migliore, molto migliore. Sì, lo so, ma sta scaldando la radio, quando scaldano vanno meglio, capito? Questo è un fuoco sotto, non funziona. Metta la tuffa così. Dentro la mia massima allora accendi. Beh, su, che le case hai già detto. Io so che no, che con questi bisogni me ne so mai niente rugabbo, un vedi tutti dai si buoni a cantare a ciarrani i miei vasi in rugabbo a pallone. Apri il vacone e falli sci a passeggiare. No, ne bavi su il vostro vane, due mestarini di raggi e due arrivedi e ne l'abbiamo finita, lo manco. Siamo prima. Sì, che ti ascolto. Sì, la modulazione è buona. Poi il resto l'hai detto tu. Capo, forse non ti ha sentito, Gianni. L'ho sentito, tipo lo sento bene, però basso, solo che c'ho gli uccellini, no, che erano indigoglienti e quindi non l'ho capito. Va bene, a dopo, dai, già ci sentiamo. Capito già? Sì, no, già l'ho sentito anche io. Dopo, è che lo sento basso, dai. Magari tu lo senti diversamente, ma io già lo capisco, però mi devo sollevare il volume per ascoltarlo, diciamo, un po' meglio. Capo, dai, tanto io l'hai inteso. Va bene così. Avanti, Vanni. Basso arriva, ma io arrivo. Vabbè, capito. Anche ieri non migliora il tempo, non ha gana Vanni, non ha gana, vedi che te pusugno e a Barolo qua Eva bubu e io già vuoi fare, ma comunque possiamo perdere, va. E poi Gianni. E allora deve essere buccata la zizzena, ma no. Ma quando mai con tutta cazzo leva che spendi? E con rigosi dici il tuo vaccino è sempre chiuso. Io ci credo poco, se mi dici che hanno fatto qualche altro guasto, che c'è qualche spirita che veramente magagna sotto, allora sì. Però del resto poco mi credo. Non lo so neanche io. Vabbè. Prendiamo quello che ci dà. Infatti, poi stavo leggendo su Facebook che adesso non mi ricordo in che paese è, siccome c'è la mancanza di acqua, tipo come tenere noi. E andato uno di questi che si può fare i bozzi, la vita non beva, mi è petta appena, va a me la zecchemmo leva. Oh, una odoreva e ha bisogno di questo prendere un gozzo, lo diraggio di leva, la condotta principale, va sul paese. Cioè, petta, mi prende poco leva, mi fa un posto, non è che a tutto il paese è una balaura manna. Ma deve essere che hanno trovato qualche vena qui, nel coso che c'era, su tipo in una montagnetta, non so come so, comunque dice che c'è acqua, è tipo la fontana a Vellella, che sempre farendeva, però non aveva i gas. Ma chissà, Vanni, ma chissà la Vellella, da ne arrivi leva? Capita, mica la puoi sapere dove arriva, è molto difficile sapere dove arriva sotto, arriva da sotto, però capita, che non è giusto se aveva calzato dai ghibi, aveva calzato che veniva non aveva avuto leva, ma se è buona ancora leva, ma fino a metà l'anno passato c'è inteso che era bottabile puro. Lo so, però a me non so cosa è bottabile, però l'anno passato era nel difendere un po' di niente e dice che era pure bottabile. Non saprei. Di solito bevo l'acqua e bottiglia, tranquilla. Ah sì, beh. Ormai chi creva se vi giuro parlava e basta. Comunque non lo so, ma comunque va, ormai l'inquinamento sotto è grave, quindi non sapevo da dirti, non saprei. Cava avanti già. Ehi agappa Roger, allora io so che quell'acqua della Billellera viene da su, da Neve Montigaura, sulla destra dice che c'è una specie di anfratto roccioso e dice che l'acqua sgorga da lì. Infatti va sotto tipo dove c'era la balestra di Modà, non la balestra, la biblioteca. Infatti sotto la biblioteca c'è un camerone che avevano fatto vedere dove c'è tipo come si può essere la vasca della Villellera. Però l'acqua arriva da sulla montagna di Montigaura. Poi da dove arriva non lo so, magari ne parla da Urgido, magari ne parla da Maciuru. Però mi avevano fatto vedere che scendeva da lì, perché a fianco a Montigaura, dove c'è il monumento della croce, c'è una campagna lì che c'è questo coso da dove scendeva l'acqua, e quindi l'avevano fatta incanalare lì. Però noi quando eravamo ragazzini, chi se l'avevamo sempre vista, non si è fatto mai nulla, quindi nel senso che quando passiamo verso la zona dell'Hotel degli Ulivi, se a mia usare randagene, ogni tanto un budrone d'uva, due arance, due gosi, e poi quando arrivavamo lì ci riempivamo la bottiglietta pure bevevamo con le mani, non sta mai fatto nulla, anche non è buona rinfrescante perché quelle acque lì hanno tutti i sali minerali e delle priorità necessarie per l'organismo, mentre quelle in bottiglia sono tutte acque purificate, nel senso che se tu guardi non è che hanno molti reagenti di sali minerali eccetera eccetera, perché stavo sentendo una discussione in internet, quindi dice che ogni tanto ti devi bere un bicchiere di acqua al limone, perché quell'acqua lì non ha le priorità necessarie per l'organismo. quasi pure vivo. Però il discorso è sempre questo, si partono pure in giorra, se viene pulito la fontana, il gordo, il disararo, la fracca come in stima di bene, noi andavamo sempre a prendere quell'acqua di giorno. Era buona, era fresca, magari sarà un po' più calcarea, ma io ho giunto di niente, un riceva una carrabbio iuia, e tu è una giugarrabbio. La portavo a casa, la nonna è andata giù con una vestetta, con un bidoncino, e c'era sempre la gente. Adesso magari con la scusa che magari vanno alla Conad o a comprare, piglia una gasciadeva, piglia l'ido, piglia l'arte. Capito. Però secondo me se l'acqua lì è sempre buona per me. E comunque il discorso è che chiaramente l'acqua sono le fosse settiche, comunque è sempre meglio andarci piano, sempre meglio analizzarle poi, non so, ma quella comunque è analizzata perché se il comune la ripresa in mano vuol dire che è potabile, cioè almeno, se non ci sarebbe stato scritto un cartello che l'acqua non è potabile, ma se l'hanno ripristinata qualcosa c'è. Di buono, di buono, avanti, avanti, avanti, ok, chiudi, chiudi. Abbassa l'amplificazione, tu da quando sei rientrato non dai, vuoi spaccare le colonnine. Va bene, bulgare su dove ti dichia. Allora, a 2 metri che mi ha detto che stanno vibrando le orecchine. Vanni, abbassa, sei troppo amplificato, stai scorreggiando nella colonnina, poi fai quello che vuoi. Ciao Gianni, tu lo ascolti bene? Sì, no, come hai detto tu, fai un moto zappa, andrà tu rendi e non si comprendi, però a volte sì, a volte no. Ma magari è mezzo influenzato da guru romadio. Vanni, abbassa, abbassa, porco immondo, c'ho sotto i piedi, e bevi l'acqua della billellera. Abbassate le voci. Ciao Franco. Con il compressore va meglio. E un'altra storia, mi chiedo anche a Gianni o a Franco che è entrato adesso. Buongiorno. È normale, non me ne era bezzato, dai, non ti arrabbiare. E poi pensa le casse quelle belle della, insomma, quelle col buffer da 300 almeno. No, forse non hai capito niente tu di cosa sto usando io, magari le casse che ho io tu non ce le hai neanche. No, di chi se non c'è manco una, sinceramente parlando, manco una di quelle casse così grandi. Manco mixer, ma qualcuno e basta, Ma vabbè, dai, lasciamo perdere, se no ti mando la foto e poi mi chiedi anche scusa. Franco, riprendi. Sì, vedi Vanni, hai tolto il tuo accessore e si sente molto molto meglio. Boh, Vanni gli si è bruciata la radio. Vanni, usala questa radio, perché sennò vanno male. Oh Tino, ascolta, stavo facendo una foto di qualche cassa che ci ho appoggiata qui in magazzino. Magari una, poi ce ne ho altre 2, 3, 4, sì, la nostra fa. Faccio le foto anche dei mix, della, vabbè, delle, no, lascia perdere, lascia poi ti fa via. Sono tremato. No, ho detto una cassa della linea, no, cassa così non la gioco Antonio voi, non me ne faccio niente di quelle. La cassa linea radio e basta. Aspetta, Tino, cosa non intendi Ucci? Tino! Ehi, stavo rispondendo un attimino a una bassa che avevo. Oggi non intendi Dino a me. Ho detto, io ti sento qui, Franco. Rispondi allora. Guarda che sta chiamando Gavino. Se sono mezz'ora io dicendoti guarda che ti sento, e poi ho detto stavo rispondendo a una persona. Non ti sentono Gavino. No, a Gavino non lo ascolto io qua. Andrà bene. Basso è ti. Sta provando una radio. Sì, lo so Fra. Perché io vorrei a 7, lui è 7 quindi non lo sento. A volte anche il 8 arriva al QRM, quindi lui linea. L'abbiamo provato anche ieri notte. Sì. Va bene. Beh, avammi andando a mangiare, ci sentiamo. Ciao Vannino, ciao Tino, Gianni e Gavino. Buon pranzo quando lo farete. ti sentiamo, ciao ciao, avanti Vanni. Prendo quando, adesso ci vuole tempo, fra un anno magari, la vecchia fra 12:34, sei puntuale pure. Va bene, Pedettino, dai, ciao Frank. Ciao Franco, buona carica, buon tutto, dai. No, io devo aspettare ancora. Devo aspettare perché deve venire gente qua e quindi devo temporeggiare anche io. Ma fra un po' mi sposterò per fare il fuoco. Andare, vai Gianni. Ciao paga paroge, andare, appetito fra, buon pranzo e tante cose buffone e cose belle. E magari ci sentiamo in prossimina e niente, tutto qua, buon pranzo. Yes, ciao Franco, vediamo se vi sentite adesso, buon pranzo, ciao Fra, alle prossime, se vuoi entrare dopo pranzo già sono in radio, se ci dai questo onore niente della tua presenza. Comunque buongiorno Vannino, decisamente meglio la radio da quando è tolto il processore. Va bene. No, ti sto provando un presidente Jackson di Gianni qua, che l'ho preso stamattina, sono andato a sorsa a prendere la roba e gli ho detto dammelo che te lo controllo. E niente, glielo sto controllando, dai. Sta radio spara 25 watt, è bellina. Però è tutta canta scacciavitata e sto cercando di recuperargli una bobina variabile. Chiedeva se capirà via prima se diviso da cacciavite. C'ho l'oscilloscopio attaccato e adesso l'ho attaccato perché anche io sono quasi pronto a mangiare. Però devo riuscire a recuperare una bobina variabile, anche se no in oggi è un po' garito un disastro, non devo cercare di saldarla perché non è un lavoro, perché se la disaldi devi cambiarla. I cacciaviti vuole i pigliati e sabuti tratta voci e sabuti tratta, poi vanno sicuramente, hanno usato cacciaviti conduttivi perché c'era una resistenza che la tutta copiata proprio vicino a questa bobina, l'avevo cambiata e adesso va, ma c'è questa bobina variabile da recuperare. Dai, buon pranzo a tutti, sentiamo dopo, ciao Fra, buon pranzo, vai Tino, riprendo. Sì, va bene, anche io fra un po' sto mollando. No, dopo non so se attacco, perché vabbè, stasera farò un pochino di legna, se ce la faccio almeno un po' di pedale a tagliarle, perché sennò qua la notte si schiatta. Io sono diventato a legna, quindi devo lavorare. Andare bene, va bene, dai, stiamo andando, capì? Allora, niente, buona carica anche a te, rilancio il mic a Vannino per i saluti e poi anche io mi sposto, dai. Ok, sì, comunque il numero della corte, il processore qua spinge troppo e quindi aveva un po' di problemi, va meglio così. Va bene, dai, vi lascio anche io, intanto finito qui giù, vado su e vedo se almeno l'aperitivo me lo prendo prima il pranzo. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti. Tino, e fai bravo con le orecchie. Io sono sempre bravo, per quello ti ho ripreso. Ciao Vanni, ciao, un abbraccio. Allora, appetito a tutti ragazzi, e così andiamo a mettere qualcosa sotto i denti e cominciamo a fare il barbecue. Allora, va bene, dai, ciao Gianni, ciao. Buona carica anche a te, ci sentiamo stasera magari nel caso, se tempo, voglia e schiena permettendo. E gli agappa Roger, andave, buona ricarica, buon tutto. Non lo so se Vannino sta andando anche lui a mangiare, un buon pranzo anche a Vannino, niente, magari se nel caso ci sentiamo stasera o prossimamente. Allegre loro e buon appetito a tutti. Andami, ciao. Quindi Vanni, hai già chiuso, ma da dove stai modulando? Da sotto in piazza o da sotto via dove stai?